Ciao a tutti, buonasera. Io sono Giacomo dell'azienda agricola La Basia, sul Garda. Ne produciamo a Puegnago, che si trova sulle colline nella riva sud-occidentale proprio del Garda bresciano. Mi dovete scusare se non saprò esprimermi con tutta la proprietà tecnica che probabilmente hanno invece le persone che hanno parlato prima e parleranno dopo di me. Io sono qua stasera in sostituzione del luminare, insomma, della cooperativa di cui siamo entrati come fondatori da poco tempo, il quale ha sicuramente molta maggiore perizia di me, ma non ha potuto essere presente proprio perché in questi giorni è pieno fino al collo di lavoro e quindi mi ha chiamato questo pomeriggio e ha detto: guarda Giacomo, io rimango al mulino perché c'è un sacco di lavoro da fare. La storia però da cui parte, insomma, il nostro progetto, credo di riuscire a raccontarvela, e si parte da un'idea molto simile a quella che è stata raccontata da poco, e cioè dalla riscoperta il desiderio di riportare alla luce delle varietà antiche che si coltivavano tradizionalmente anche nei nostri territori, una delle quali appunto è molto simile probabilmente al rostrato di cui si parlava prima. Io vi ho portato qua, poi se siete curiosi di guardare di cosa si tratta, sono tre varietà le varietà che coltiviamo: il rostrato, l'ottofile rosso e il quarantino nostrano. La nostra cooperativa è formata da un certo numero di agricoltori che si trovano raggio di una ventina di chilometri attorno al comune di Bedizzole. È presente poi un agronomo e il mugnaio. E da questo lavoro, che è stato messo in piedi ormai da circa 12 anni dal nostro presidente, appunto, che di professione è un trebbiatore e che per cui fin da giovane, da quando era più piccolo, aveva sempre conosciuto con mano il lavoro e i prodotti che crescevano nei nostri territori, ha avuto questo desiderio di riportare alla luce queste varietà che si erano perse, e la caratteristica delle quali, appunto, come si diceva poco fa, è proprio che sono molto indicate per il consumo alimentare, per la produzione della polenta. In particolare, appunto, una caratteristica in più, il fatto che sono varietà vitree e che quindi appunto hanno un contenuto molto basso di amidi, contengono queste sostanze che danno un gusto molto dolce alla polenta e che si prestano molto bene alla macinazione a pietra, alla macinazione integrale, anche perché hanno un buon contenuto di oli che permettono proprio il buon funzionamento della macina e la migliore resa in termini proprio di qualità, di gusto della polenta. Anche perché il problema, diciamo, o comunque il motivo per cui i mulini a pietra si sono persi è, oltre ovviamente alla difficoltà di manutenzione, la perizia che è necessaria, anche il lungo tempo che occorre alla macinazione. Però si parla di una pietra, la pietra è un sassone di granito di 1,20 m di diametro e di 12 quintali, che adesso è azionato attraverso un motore elettrico, ma che tempo fa appunto le macine antiche funzionavano ancora con l'acqua. E appunto questo lungo tempo di macinazione permette di mantenere nel prodotto tutte le sostanze che sono contenute nel chicco. E un'altra particolarità, appunto, a cui già forse vi accennavo, è proprio questo fatto che nella nostra cooperativa è presente in prima persona un mugnaio che è entrato in questa cooperativa mettendo a disposizione la sua capacità, la sua perizia e la sua attrezzatura. Perciò in questo momento nel comune di Bedizzole, che è questa piccola cittadina nel nostro territorio, in un edificio che risale al 1100 e di cui ancora sono trovate testimonianze già dal 1100 che fosse presente questo mulino, sia per la molitura dei cereali e sia anche dei macchinari, dei magli, si batteva il ferro. Perciò c'è tutta questa struttura che è molto interessante, proprio perché è provvista di tutta una serie di tubazioni, di insomma i ruderi sono rimasti ora, ma di strutture che permettevano proprio il funzionamento di queste officine. Adesso all'interno di questo edificio, che è stato rimesso a posto ed è possibile visitare, è stato portato questo, questa macina che risale alla metà del, dell'Ottocento, che il nostro mugnaio ha, ha rimesso in funzione. È un lavoro piuttosto delicato perché la macina ha bisogno periodicamente di essere estratta, sistemata, riportata a livello, quindi battuta proprio con dei martelli. Il mulino dispone di una serie di strumenti, tutti apposta, cioè come un corredo di attrezzi che fanno parte del, del macchinario e che il mugnaio, con la sua sapienza, la sua perizia, sa come adoperare e fa parte un po' dei, dei segreti della sua professione, insomma. E quindi, grazie anche a questa capacità, all'interno della nostra cooperativa, noi riusciamo a, a provvedere a tutta la filiera produttiva e alla fine alla, che porta alla fine a, a questo prodotto. Perciò, sia dalla, dalla coltivazione, l'essiccazione e poi infine appunto la, la molitura. In questo momento siamo 8 produttori, 8 agricoltori, 8 aziende che stiamo collaborando a questo progetto che è ancora molto giovane, si parla ancora di quantitativi molto piccoli, nel senso che appunto in tutto quest'anno abbiamo messo insieme un centinaio, poco più di un centinaio di quintali di mais. D'altra parte il, la fortuna che sta avendo e la, la, come dire, la, l'apprezzamento che sta avendo questo prodotto, che si sta diffondendo molto, in, per esempio tantissimi panifici e tantissima gente viene a chiederci questa, questa farina, perché molti, anche anziani, si sono ritrovati a, a riscoprire il gusto che trovavano nella, nella polenta che consumavano da giovani, che tra l'altro non sempre è legata, come dire, a, a ricordi di prosperità. Per tanti era l'unico pasto, mattina, mezzogiorno e sera, e non c'era altro. Però in tanti sono venuti a, a raccontarci di come il gusto di questo prodotto, di questa farina, gli ha riportato alla memoria il, la loro infanzia. E perciò, insomma, proprio questo discorso di passione che ha messo insieme questo progetto sta coinvolgendo molto attivamente sia le, come dire, noi produttori che chi, appunto, i consumatori che ci stanno molto vicini, ci stanno attenti e si fanno presenti per raccontarci, insomma, del loro apprezzamento, e sia fortunatamente anche il comune, le istituzioni che sono, insomma, su, vicine alla, al nostro lavoro, ci stanno dando molto, molto spazio, molta fiducia, e perciò a me fa piacere di poter raccontare di una storia che è iniziata in un modo molto fortunato e che speriamo che ci possa portare avanti.